Anche degli indono a star chi deforano. Veniva qualche chiara. Si può domandargli il sindaco che non passa la campana lì, sì. I funghi. Sì. Giusto? Da qui ci non venire a rendere locale.